Ovviamente la rappresentazione che viene data ai media spesso di una crisi parlamentare, ma in realtà sotto la crisi parlamentare c'è una crisi, diciamo, economica e soprattutto due ricette di soluzione di questa crisi. Penso che mi pare abbastanza evidente che il governo e questa maggioranza siano state da subito attaccate sia da Renzi, ovviamente, sia da Confindustria, ma anche da una parte della stampa, nel mondo della stampa mainstream, quindi il Corriere, la Repubblica, perché ovviamente la tregua che Conte, che il governo Conte, nonostante ovviamente i limiti dello stesso governo, ha dato, soprattutto in termini di risposta al mondo del lavoro, pensiamo al blocco dei licenziamenti, ma anche alla cassa integrazione, alla discussione sulla riforma universalisti degli ammortizzatori sociali, l'accenno della discussione sul salario minimo, è chiaro che sì, che nell'aria c'erano elementi di controtendenza che non andavano bene alle forze che invece vorrebbero tornare al mondo di ieri, cioè di avere sostanzialmente mano libera, quindi sblocco dei licenziamenti e ovviamente la possibilità poi di ritornare, diciamo, al mondo di ieri, quindi assunzioni temporanee, blocco dei salari e risorse esclusivamente al mondo delle imprese. C'è appunto quindi il rischio che in uno scenario di un governo istituzionale, come viene chiamato, si arrivi a non rinnovare il blocco dei licenziamenti? Sì, è probabile, nel senso che adesso il blocco è fino al 31 marzo, in relazione a come si evolverà la crisi di governo e quali sarà la nuova composizione della maggioranza che sosterrà il prossimo governo, è probabile che si arrivi a un governo tecnico o una soluzione tecnica con Italia Viva, Forza Italia al centro, quindi con un asse più spostato a destra, ci sia lo sblocco dei licenziamenti, che è una misura che Confindustria chiede. E chiede una parte anche del mondo, oltre anche Confindustria, un'altra parte del mondo delle imprese, per cui il rischio è un rischio oggettivo che avremo davanti. Alcuni editorialisti quest'oggi scrivevano basta con i bonus, i ristori, bisogna fare le riforme. Ora, questa parola spesso in Italia non anticipa nulla di buono, che rischi di riforme corriamo? Guarda, questa parola evoca bruttissimi ricordi, è la parola che ricorreva dopo la crisi del 2008 e poi nel 2011, e le riforme sono le cosiddette riforme strutturali, sono riforme nel mercato del lavoro per liberalizzare ulteriormente il mercato del lavoro attraverso l'aumento dei contratti atipici, la flessibilità in entrata, cioè la possibilità delle imprese di assumere lavoratori con contratti temporanei, quindi riduzione ovviamente dei salari, degli standard salariali. Questo è un primo tassello fondamentale delle cosiddette riforme strutturali. L'altro passaggio è sicuramente quello delle pensioni, perché si proverà a manomettere, diciamo, quota 100 e a tornare a un sistema simil Fornero di allungamento dell'età pensionabile. Io credo che questi due siano i due veri strumenti e i due veri passaggi che segneranno le cosiddette riforme strutturali, quindi pensioni da un lato e mercato del lavoro dall'altro. Sono le due grandi questioni per ristrutturare la società italiana e ritornare poi a quello che abbiamo già conosciuto dopo il 2008, cioè sostanzialmente sono le riforme fatte poi anche dopo la crisi del 2008, perché dopo la crisi c'è stato appunto un governo di quella crisi, è stato un governo segnato da politiche di austerità, quindi di blocco della domanda interna attraverso il blocco dei salari, di flessibilità e liberalizzazione del mercato del lavoro, di innalzamento dell'età pensionabile, cioè quindi riforme che vanno contro gli interessi delle classi lavoratrici e contro, devo dire, anche gli interessi delle giovani generazioni, che invece oggi avrebbero bisogno di un piano, per esempio, di assunzione pubblica nella pubblica amministrazione, visto che la pandemia, tra le altre cose che ha rivelato il fatto che abbiamo delle piante organiche non sufficienti a rispondere alle esigenze e ai diritti elementari e costituzionali dei cittadini e delle cittadine. A proposito di nuove generazioni, si è detto che questa crisi di governo è fatta anche per la gestione dei fondi del Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund. Possono esserci appetiti del capitale anche su queste risorse? Indubbiamente, noi siamo davanti a una crisi che è in sé una crisi del capitale, cioè siamo dentro una crisi tra pezzi e fazioni diverse di capitale, una crisi che mette anche in contraddizione gli interessi, come dire, dei commercianti, di coloro che dipendono dalla domanda interna e coloro che invece vorrebbero aprire i mercati e quindi liberalizzare ulteriormente il mercato e estendere anche lo spazio economico fuori dal contesto nazionale. Quindi il recovery plan diventa un'occasione anche per cercare di sanare questa frizione, questo conflitto, restituendo, diciamo, una parte di margine alle imprese che dipendono dalla domanda interna attraverso verso la riduzione delle tasse e la riduzione delle tutele nel mercato del lavoro, che è una significativa misura, diciamo, per stabilizzare i bilanci delle imprese in difficoltà e quindi anche di riprendere poi dopo la fine del lockdown, e dall'altra parte quello di consentire alle imprese invece che dipendono prevalentemente dalla domanda estera di riagganciarsi poi alla crescita, o comunque alla ripartenza che ci sarà anche negli scambi commerciali e nel commercio internazionale. Quindi è tutta una partita che si gioca per mettere insieme e saldare fazioni di capitale che oggi sono tra di loro non necessariamente alleate.